4 mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, sms o whatsapp al 349-238-6666. Grazie agli ascoltatori che mi sembrano apprezzare, insomma, come abbiamo fatto questa prima parte di 24 mattino. Comunque grazie anche a chi apprezza, chi non apprezza. C'è per esempio un ascoltatore che non si firma, so solo di lui che come foto del suo profilo whatsapp ha un bronzo di Riace, che innanzitutto ci dice che la pronuncia di Gebral è Gebrel, e qui ci sono varie interpretazioni, bisognerebbe chiamare la stessa Rula per dirci una volta per tutte come si pronuncia il suo cognome. E poi mi dice uno degli ascoltatori gli piacciono molto i punti esclamativi, i punti sospensivi, ne mette tantissimi, e mi dice che come non so cosa significa campagna sovranista. No, lo ribadisco, io questa parola sovranista, specie se appunto per, come avete sentito nel servizio di Andrea Viali, per decidere se far partecipare o no una giornalista che era stata chiamata da Amadeus, direttore artistico del festival, per intervistare Michelle Obama, e non sono molte le giornaliste in Italia che potrebbero fare un'intervista in inglese a Michelle Obama, e mi chiede se sono giornalista, sempre il bronzo di Riace, tre punti interrogativi, vai a studiare che meglio. Va bene, andrò a studiare che meglio. Ma adesso abbiamo come ospite, come vi avevo anticipato, Ugo Tramballi per parlare della questione di questi venti di guerra, sicuramente angosciante se volete, perché appunto abbiamo visto tantissimi fronti. Allora, prima di tutto do il buongiorno a Ugo Tramballi, che ho svegliato stamattina alle 7:15, quindi prima di tutto lo ringrazio. Naturalmente per tantissimi anni è stato qui con noi in redazione, adesso comunque continua a collaborare con il Sole 24 Ore ed è un grande esperto, ha anche un blog che si chiama Slow News, di politica estera, che poi vuol dire è sempre più complicato essere esperti di politica estera oggi. E quindi buongiorno Ugo. Buongiorno, fare piacere al nostro bronzo di Riace. Voglio solo precisare che siccome che mi sveglio comunque presto la mattina, non c'è problema. Grazie. Senti, no, la prima cosa che volevo chiederti, perché come abbiamo visto l'apertura di molti giornali, diciamo la reazione, diciamo, non bellica prim di cui si parla oggi, è questo annuncio dell'Iran, ci ritiriamo ufficialmente dall'accordo del 2015. Quindi la prima cosa che volevo chiederti, perché ci stiamo un po' dimenticando di quanto era stato importante, era stato un obiettivo personale seguito per tantissimi anni, questo di raggiungere un accordo, e all'epoca era stato firmato anche dagli Stati Uniti con presidente Barack Obama, quindi perché era così importante, speriamo sarà ancora, magari si troverà un modo per salvarlo questo accordo, perché era così importante, che cosa potrebbe in effetti succedere se l'Iran si sfila completamente? Beh, intanto per correttezza precisiamo che prima sfilarsi sono stati gli Stati Uniti di Donald Trump. Uh-huh. E già l'anno scorso l'Iran aveva annunciato anche lui un ritiro dall'accordo sul nucleare iraniano, intendiamoci il nucleare militare iraniano, ma senza precisare però con quali modalità. La cosa importante non è tanto che l'Iran decida, grave che l'Iran decida di uscire dall'accordo sul nucleare, ma come, cioè fino a che punto arricchisce il suo uranio, o fino a che punto produce acqua pesante. È questo che definisce un programma nucleare dal civile al militare. E, di solito l'Iran è sempre stato abbastanza moderato nei suoi atteggiamenti diplomatici, nelle sue minacce. Salvo poi, a parte appunto il Medio Oriente, dove appunto ha un'ambizione di geopolitica, di controllo della regione, soprattutto del mondo sciita medio orientale. Però potrebbe anche darsi che per l'Iran, desideroso di vendicarsi dall'omicidio di Soleimani, abbia perso un po' questa lucidità che ha sempre dimostrato di avere nei rapporti internazionali. Anche perché finché c'è stata la guerra fredda, con la deterrenza reciproca, si parlava, no, della minaccia nucleare, di come una guerra nucleare oggi sarebbe ben diversa e le armi sarebbero ben diverse dalle uniche due bombe che abbiamo visto veramente esplodere nel 1945 a Hiroshima e Nagasaki. Quindi l'idea oggi di scatenare una guerra nucleare, mi sembra che veramente finita la guerra fredda, quindi diciamo 1989, crollo del muro di Berlino, non se n'è più parlato, ma dobbiamo penso veramente renderci conto di che cosa vorrebbe dire sganciare degli ordigni naturali, degli ordigni nucleari adesso, che sono diventati molto diversi da quelli che avevamo visto appunto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Intanto dall'idea di uscire da iniziare un programma o di riprendere un programma nucleare a poter scatenare, avere in mezzo a scatenare una guerra nucleare, ci passa del tempo. Se domani l'Iran decidesse di fare la bomba, ci metterebbe almeno un paio d'anni, e poi una bomba, oltre dopo averla fatta, devi anche riuscire a portarla sull'obiettivo che tu hai deciso di certo. distruggere. Quindi ci vogliono i missili, ci vogliono appunto i mezzi, i vettori necessari per farlo, anche questo non è facile. Però a dispetto delle minacce dell'Iran e a dispetto dell'esistenza del giovane dittatore della Corea del Nord, in realtà il sistema è a dispetto anche della crisi dei rapporti fra Stati Uniti e Russia per quanto riguardano gli accordi nucleari. In questi ultimi 20 anni la proliferazione nucleare è molto diminuita. All'inizio degli anni 90 c'erano almeno una ventina di paesi che erano in grado, avevano sviluppato le tecnologie necessarie per passare in breve tempo dal nucleare civile al nucleare militare. Oggi sono molti di meno, quindi in realtà c'è più è molto più difficile la proliferazione nucleare anche, oggi di quanto certo, anche perché passato. Ci vogliono degli investimenti pazzeschi, no? Che probabilmente in questi 20 anni sono stati destinati ad altri, o ad altro tipo di investimento nucleare militare, o magari a un investimento civile. Donald Trump ha ricordato con il suo tipico linguaggio, un po', permettetemi, un po' da cowboy, che dice: abbiamo appena annunciato di aver investito 2.000 miliardi di dollari, perché è stato il più grande budget della difesa, lo ha annunciato da moltissimi anni, e non preoccupatevi iraniani, potremmo anche usare un po' di questi nuovi armamenti in un'eventuale escalation. Quindi anche questo fa un po' paura, no? Che gli Stati Uniti abbiano ricominciato a investire così tanto nei loro militari. Spesso si dice che gli Stati Uniti sono da sempre un'economia di guerra, se vogliamo, cioè il budget militare americano naturalmente è il più alto al mondo, credo, no? Forse quello cinese è ancora più alto. Gli Stati Uniti e la Russia, perché poi la Russia, diversamente dagli Stati Uniti, non ha un'economia sviluppata come quella americana o come quella cinese. La Russia, se togliamo appunto la produzione di armi e il gas e il petrolio, la Russia, l'economia russa non produce nulla, e in proporzione la Russia investe molto più sulle armi e anche sulla ricerca nucleare e militare di quanto non facciano gli Stati Uniti in proporzione alla loro economia. Uh-huh. Detto questo, però, appunto il problema è che appunto oramai non l'arma nucleare è sempre importantissima. Ogni paese che riesce a dotarsene comunque conta più di quanto non sia un paese che non ha l'arma nucleare nella geopolitica. Certo, pensare per esempio al Pakistan-India, no? Quanto sia un tema questo. Certamente, la stessa Corea del Nord, sì, dal loro punto di vista non hanno tutti i torti, perché probabilmente se non avessero sviluppato un'arma nucleare, probabilmente il giovane dittatore di Pyongyang avrebbe già fatto la fine di Saddam Hussein, che la bomba atomica che non aveva, o anche di Gheddafi, che la bomba atomica non aveva. Però oramai la tecnologia hanno sviluppato anche armi che non sono letali, che non sono necessariamente nucleari. Cannoni super veloci, missili supersonici, più veloci della luce, come vuole appunto fare, vuole Vladimir Putin. È ancora più grave: non è necessario costruire delle grandi bombe, dei grandi arsenali nucleari, perché oramai si sta sviluppando, e questo è molto pericoloso nella mentalità di chi governa il mondo, Stati Uniti, Russia, Cina, eccetera, cioè delle bombe atomiche di cosiddette di teatro, cioè di piccola quantità, che capaci non nemmeno di distruggere una città, ma magari capaci di distruggere una divisione corazzata, certo. Che però appunto sempre nucleari sono, quindi poi gli effetti, il fallout è comunque pazzesco, certo. Però appunto l'esistenza, la costruzione di queste armi nucleari di bassa potenza stanno abbassando anche quella paura, quei tabù che ci sono sempre stati viene l'uso dell'arma nucleare. E un'altra cosa che volevo chiederti è questa crisi viene scatenata nel momento in cui sia in Iran sia in Iraq, ma penso anche al Libano, le persone cominciavano a protestare verso i loro governanti per le condizioni economiche, che certo in Iran dipendono anche dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, ma non solo, e lo stesso vale per l'Iraq, per il Libano, dove non c'è una classe dirigente che ispiri fiducia o che dia una speranza soprattutto ai giovani. Sappiamo che in particolare in Iran e in Libano c'è una popolazione molto giovane, quindi è un po' così una di quelle tristi ironie della storia, se vogliamo, no? Dove in un momento in cui cominciava comunque a esserci una maggiore consapevolezza interna per un cambiamento dall'interno delle condizioni di un paese, arriva questo scossone dall'esterno e il paese si ricompatta, come abbiamo visto soprattutto in Iran, contro il nemico esterno. Sì, indubbiamente sta succedendo questo, anche perché appunto i giovani protestavano contro la corruzione del loro regime, soprattutto contro l'elemento religioso, contro il settarismo dei governi che appunto li governavano. E ovviamente quando c'è il richiamo alle armi, salvare la patria, sono i primi ad essere spazzati via. Però ecco, non credo che sia questa la ragione per cui stiamo vedendo quello che sta accadendo oggi in Medio Oriente. Medio Oriente comunque ha una dimensione di instabilità, è la regione, è il massimo produttore mondiale di instabilità, quindi questo accadeva prima e accadrà anche dopo, che le manifestazioni di quello che sta accadendo oggi ha dinamiche completamente diverse. Certo, cerchiamo lo stesso di essere ottimisti, cioè mi viene sempre in mente la canzone di Sting, I hope the Russians love their children too, cioè l'idea di scatenare una guerra a bassa intensità nucleare, come ci spiegavi, o comunque una guerra dovrebbe, credo, veramente spaventare chiunque. Leggevo l'altro giorno l'intervista a Michael Moore, che diceva stanno partendo quasi 3.000 ragazzi americani per quell'area, quando cominceremo a vederli tornare nelle bare, forse il sostegno a Trump potrebbe diminuire, forse il suo è un wishful thinking, però secondo te appunto quali sono, so che è difficilissimo dirlo, però una previsione appunto, per questo ti ho chiesto cose che non ti chiedevo appunto una previsione, però adesso in chiusura lo faccio, tu come, cosa ti senti di prevedere? La previsione del giorno della Befana, in quanto vecchio liberale tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Però sfortunatamente quando Sting scrisse quella bellissima canzone c'era la guerra fredda, ma soprattutto c'era appunto il confronto fra Stati Uniti e Unione Sovietica, e un po' per la paura, la convinzione, la certezza di essere distrutto se tu usavi la tua arma nucleare, perché c'era la mutua assicurazione, la distruzione assicurata, e un po' perché comunque se l'Unione Sovietica e Stati Uniti sul piano delle armi nucleari e non solo su quello hanno sempre mantenuto un dialogo anche nei momenti più difficili della guerra fredda, eccetto la crisi dei missili di Cuba, ma anche lì poi appunto vi trionfò la diplomazia. Temo che questo quadro, questo format non ci sia più oggi, non ci sia più, non solo perché appunto abbiamo detto ci sono nuovi attori, India, Pakistan, Cina, Corea del Nord, forse Iran, ma anche perché la stessa Russia di Putin è molto cambiata, e anche la stessa America di Donald Trump è molto cambiata. Certo, grazie Ugo, grazie mille di tutte queste informazioni, questi spunti di riflessione, e un buon 6 di gennaio a te, e insomma speriamo di sentirci presto. Ora noi ci lasciamo un attimo, sentiremo gli aggiornamenti sul metro e poi, come vi dicevo, abbiamo un approfondimento diverso nell'ultima parte di 24 Mattino sulla situazione delle carceri in Italia. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e chiedo perdono agli ascoltatori. Carmelo Lauricella in regia mi ha ricordato che il meteo non c'è alle 8:30. Sono un po' fissata con il meteo, forse perché continuo a pensare, e con questo rispondo anche agli ascoltatori che sollecitano un aggiornamento su questo. Continuo a pensare a quello che sta succedendo in Australia, lo ricordo ancora perché i dati sono impressionanti: 5 milioni di acri di foresta andati in fumo, una cifra che è talmente grande da essere difficile da immaginare. Faccio allora un confronto: sono meno di 2 milioni quelli andati in fumo in California, che è stato il più devastante incendio che gli Stati Uniti abbiano conosciuto in anni recenti, e sono meno di 1 milione gli acri andati in fumo in Amazzonia, la crisi degli incendi di quest'estate. Quindi appunto 5 milioni e continuerà questa crisi, lo ha detto anche il premier australiano ieri in televisione. L'unico giornale che oggi ne parla, di fatto sui giornali italiani non c'è più traccia di questo disastro, è Financial Times, che dice possiamo aspettare ulteriori conferme del fatto che ci sia un collegamento diretto tra questo e la generale emergenza climatica, tra questa emergenza incendi in Australia, che è comunque la più grave che il paese abbia mai vissuto, così come da record sono le temperature raggiunte vicino ai 50 gradi centigradi, però dobbiamo comunque prenderlo come ennesimo campanello d'allarme per concentrarci sul climate change in tutti i paesi, a tutti i livelli. Detto questo, prima di affrontare questo tema importantissimo, che visto che si apre un nuovo anno, speriamo forse quest'anno venga affrontato nelle sue, dai suoi diversi punti di vista seriamente, che è quello del sovraffollamento delle carceri, e non è solo un problema italiano naturalmente, vi ricordo che i titoli dei giornali di oggi, di quasi tutti i giornali italiani e di praticamente tutti i giornali stranieri, sono dedicati alla crisi in Medio Oriente. La decisione, il titolo principale di tutti, è su questo annuncio fatto dall'Iran, che del resto avete sentito anche nel GR e risentirete poi nei prossimi GR durante la mattinata e quasi sicuramente anche durante effetto giorno, e apriremo di nuovo una finestra sui quotidiani stranieri all'interno di effetto mondo, quindi dopo il GR delle 13. Il titolo principale è questo: la decisione dell'Iran di ritirarsi da quell'accordo sul nucleare faticosamente raggiunto nel 2015, dal quale gli Stati Uniti di Donald Trump si erano già ritirati. Come avete sentito, l'Unione Europea spinge tutti perché l'Unione Europea, che invece ha firmato quell'accordo e per ora parrebbe non avere alcuna intenzione di ritirarsi, spinge tutti a moderazione e l'Iran in particolare a tornare sulla sua decisione. Vedremo gli sviluppi delle prossime ore. Intanto anche in Iraq c'è stato un annuncio che però poi dovrà essere ulteriormente ratificato. L'Iraq chiede che tutte le truppe americane, quindi presumibilmente anche quelle delle missioni di pace, quindi anche quelle italiane, lasciano il paese, e vedremo appunto gli sviluppi nelle prossime ore. Ma vi dicevo, questo grande tema del sovraffollamento delle carceri personalmente mi colpisce sempre, mi colpisce sempre, perché credo che un paese avanzato si giudichi da come tratta i più deboli, quindi gli anziani, ho sempre pensato, le persone malate, i bambini, le persone che vivono in condizioni di povertà e i detenuti, perché comunque chi è privato della libertà è ovviamente in una situazione di debolezza. Quindi lo Stato certo commina la pena, fa dei processi giusti, e poi però ripeto, la civiltà di un paese si misura anche da come poi tratta le persone alle quali toglie la libertà, per ragioni anche naturalmente giustissime. C'è stato un processo, presumiamo che, salvo i casi angoscianti di errori giudiziari, quindi di persone alle quali viene privata viene tolta la libertà ingiustamente, casi speriamo sempre rarissimi, tutti gli altri hanno appunto commesso dei reati e per questo, secondo il nostro codice penale, vengono messi in carcere. Vi segnalo alcuni dati: le carceri scoppiano di nuovo, questo era un articolo pubblicato da Avvenire domenica 29 dicembre, detenuti a quota 61.000, cioè 11.000 oltre la capienza. L'Italia rischia di nuovo sanzioni dalla Corte Europea dei Diritti Umani, e il garante dei diritti dei carcerati dice serve una riforma del sistema penitenziario, e il sindacato degli agenti penitenziari ha di nuovo ribadito che però mancano 5.000 agenti. Quindi questa crisi degli organici, che riguarda tantissimi corpi di polizia e anche gli agenti penitenziari, è uno dei temi di cui possiamo parlare, e quindi abbiamo in linea Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Quindi a lui prima di tutto chiedo appunto se anche, ma penso proprio di sì, venga percepita questa emergenza, cioè da una parte il sovraffollamento, la mancanza di investimenti, l'edilizia carceraria, e poi dall'altra appunto la drammatica situazione degli organici della polizia penitenziaria. Intanto buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito in un giorno festivo, e appunto se vuole inquadrarci anche la situazione appunto da persona che conosce i problemi direttamente. Sì, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lei ha fotografato bene il problema penitenziario. Purtroppo siamo alla deriva totale, la deriva perché mancano uomini, molte volte ci sono anche delle strutture che non riescono a recepire tutti coloro che vengono arrestati. Soprattutto il problema più grave è che manca il personale di polizia penitenziaria, personale che serve a gestire la sicurezza interna delle sezioni, degli istituti. Aggiungo a questo, manca personale anche dell'area pedagogica trattamentale, che sono quelli che poi avviano attraverso un percorso di trattamento questi soggetti, una volta condannati, a poter essere riproiettati nel mondo civile. Certo, anche perché sì, credo che i dati, no? Perché se una persona semplicemente passa del tempo in carcere, ma durante quel tempo semplicemente gli manca la libertà, ma non riceve formazione, non riceve, come diceva lei, non intraprende alcun percorso pedagogico per imparare una professione, il rischio di recidiva è altissimo. Quindi quando si fa l'obiezione che la punizione deve essere così semplice, in realtà certo, però ne guadagna tutta la società se a fianco agli agenti di polizia penitenziaria, come diceva lei, ci sono altre figure che poi diminuiscono alla fine della pena, diminuiscono il rischio di recidiva. Tant'è che, aggiungo, i nostri poliziotti penitenziari sono contemporaneamente nell'istituto, sia poliziotti, sia educatori, sia psicologi, sia cappellani, cioè nella figura del poliziotto in divisa che vive H24 nel carcere, nella sezione detentiva, si racchiudono tutta una serie di figure che mancano nell'ambito del discorso del trattamento penitenziario. Certo. Io oserei dire che questo carcere ormai è un carcere concettualmente superato, un carcere che va rivisto totalmente. Quello che non capisco è perché la politica molte volte fa dei provvedimenti che sono dei pannicelli caldi, ma non vanno a fondo a risolvere il problema del carcere. Il problema del carcere, certo. Non si può mettere in carcere tutto quello che la società esterna non vuol vedere. Certo, i malati di mente, sono perfettamente i tossicodipendenti, d'accordo. Certo. Anche perché poi appunto la percentuale di tossicodipendenti nelle carceri è altissima. Ma abbiamo in linea anche Emilia Rossi, che è un componente del collegio del garante dei detenuti, e anche a lei volevo chiedere perché più ne parliamo di questa situazione, più forse i nostri politici, oltre a occuparsi di in questo momento sul grande tema della giustizia, della riforma della prescrizione o su altre beghe politiche, forse questo è un tema, ripeto, perché anche chi pensa che stare in carcere, che il carcere debba essere duro, debba essere un momento per appunto di punizione, ricordiamoci che appunto se il carcere viene usato anche per cambiare le persone che ci sono, per cercare di cambiarle, alla fine il vantaggio, quando queste persone escono, è per tutta la società. Quindi è un gioco tra virgolette in cui possono vincere tutte, persone che possono avere veramente una seconda possibilità e la società che non deve più avere a che fare con persone che delinquono. Buongiorno Emilia Rossi, grazie. Buongiorno. Anche a lei. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Sì, la situazione è esattamente quella che lei rappresenta, anche rispetto alla disattenzione o una certa disattenzione che c'è da parte della politica in questo momento. Ecco, c'è un punto critico fondamentale nel momento attuale, che la gestione del carcere oggi è tutta concentrata sull'oggi e sul dentro, cioè su come organizzare la detenzione all'interno del carcere, ma senza una vera costruzione delle prospettive successive, quindi dell'indomani e del fuori. Il carcere non deve essere carcere duro e punizione, perché la Costituzione lo dice chiaramente che l'esecuzione della pena deve essere invece finalizzata all'esterno e al recupero della persona che esegue una pena legittimamente comminata. Quindi è proprio su questo che manca in questo momento un investimento da parte della politica, da parte dell'amministrazione, da parte della politica. A proposito del sovraffollamento, vorrei dare qualche dato molto aggiornato, perché i miei dati sono aggiornati al 3 di gennaio. Mm-hmm. Noi abbiamo oggi 60.754 persone detenute su 46.979 posti disponibili, quindi abbiamo un sovraffollamento del 129,32%. Pazzesco. Ma il dato più interessante, a mio avviso, in questo quadro è che rispetto agli anni passati non c'è stato un forte aumento degli ingressi in carcere. L'aumento è importante perché nel 2019, appena terminato, sono entrate in carcere in media 100 persone al mese, ma rispetto agli anni precedenti questo aumento è minore. Quindi si potrebbe diciamo approfittare di questo dato positivo per appunto lavorare di più sui detenuti che già ci sono. Certamente, perché il dato, però, siccome la popolazione detenuta è complessivamente aumentata e ne sono entrati meno, detto in poche parole, che cosa significa? Significa che ne sono usciti meno. Mm-hmm. E noi dobbiamo tenere conto che all'incirca 4.000 persone, all'incirca anche qualcosa di più, 4.683, insomma un numero che è più vicino ai 5.000 che ai 4.000, sono persone che scontano una pena inflitta, quindi non residua, inflitta, che sta tra gli 0 e i 2 anni. Quindi sono persone che potrebbero verosimilmente scontare la loro pena con misure diverse dalla detenzione in carcere. Grazie, e veramente questo è il punto, guardi, fondamentale. Un tema veramente interessantissimo, e ribadisco il mio auspicio che diventi più un tema di discussione politica. Prima di intanto la ringrazio, la saluto e le auguro buon anno. A Donato Capece volevo fare un'ultima domanda, perché c'è un altro dato impressionante: sono 30, credo il dato sia corretto, le guardie che si sono tolte la vita nel 2019. Questo dà un'idea delle condizioni di lavoro difficilissime, perché insomma 30 persone che si suicidano anche su 5.000 è un dato importante. Magari non tutti si suicidano per questioni legate al lavoro, ma probabilmente influenzati da questo, quindi anche questo dovrebbe farci riflettere. Bene, volevo solo ratificare alcuni numeri. Intanto, le persone che si sono tolto la vita nel 2019 sono 10 e non 30, però è un fenomeno che purtroppo ci preoccupa ed è monitorato sia da noi come primo sindacato SAPPE della Polizia Penitenziaria, sia stesso dell'amministrazione. È un fenomeno purtroppo, devo dire, che è comune alle altre forze di polizia. Il mal di vivere vive chi lavora un lavoro così difficile come il lavoro nel carcere. Chi vive tutti i giorni nell'ambito del H24 a contatto con la popolazione detenuta, chi purtroppo è allontanato dai propri affetti, per cui viene mandato a far servizio al nord con uno stipendio da fame da 1.400-1.300 euro al mese, anche sono su questo una serie di cose che fanno scattare, quel mix che fanno scattare poi nell'uomo il problema del fallimento della sua vita. Ecco, molti, qualcuno non resiste, la maggior parte si proietta nel mondo della polizia penitenziaria, nel mondo del lavoro, trova stimoli per fare un servizio difficile, certo, molte volte non compreso, mal compreso anche dalla cittadinanza che non conoscono. Spesso veniamo accusate di essere coloro che maltrattano, e invece non è così, perché noi salviamo la vita a decine e decine dei detenuti tutti i giorni. Ecco, tutto questo non ci fa lavorare serenamente. E poi il fatto che noi mancano 5.000 uomini dell'organico, certo, e siamo costretti a prestare servizio con dalle 8-9 ore al giorno per turno. È impossibile. Purtroppo di carcere si muore. Certo. Muoiono i ristretti. Certo. Alla stessa maniera la polizia penitenziaria, che oserei dire vive una vita purtroppo simile a quelle dei detenuti, pur non avendo commesso nessun reato. Grazie mille per la sua disponibilità, ancora buon anno, e speriamo insomma che questo 2020 porti delle novità positive, delle riflessioni concrete, costruttive, di chi può prendere delle decisioni e cambiare la vita dei carcerati, degli agenti penitenziari, e quindi migliorare in generale la nostra società. Grazie Donato Capece e buon anno ancora anche a lei. Ci fermiamo un attimo per una brevissima pausa e ci ritroviamo poi nella seconda parte per parlare appunto di quello che si può fare all'interno del carcere in vista del rilascio e del reinserimento nella società. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666. Io capisco che questo tema sia delicato e che il buon senso dica: chi ha commesso un reato ed è stato processato ed è stato condannato, in Italia poi ci sono 3 gradi di giudizio, quindi si presume che sia stata valutata con la massima completezza la colpevolezza di chi poi viene alle persone alle quali viene tolta la libertà. Io capisco che sia un tema che fa venire anche reazioni molto così, anche verbalmente, come quelle che vedo qui sullo schermo, che non leggerò, violente. Però ribadisco a tutte le persone che pensano che il carcere debba essere duro, ripeto, poi siccome la maggior parte delle pene sono a termine, in realtà l'ergastolo in Italia non lo sconta quasi più nessuno, queste persone tornano nella società, e allora è un vantaggio per tutti se quando tornano sono persone cambiate, sono persone che hanno degli strumenti innanzitutto per valutare i crimini che hanno commesso e soprattutto per dare un contributo attivo alla società. E su questo ci concentriamo adesso nella seconda parte, nell'ultima parte di questa trasmissione, perché appunto il tema della formazione. Ci scrive un ascoltatore, per esempio: il figlio della mia compagna è in carcere a Opera, il reinserimento è pura utopia. E allora abbiamo ospite con noi questa mattina Martina Storari, che è dottoranda in musica e spettacolo a Roma e sta eseguendo una mappatura dei laboratori di teatro attivi in carcere, perché in questo caso sono naturalmente sia uno strumento terapeutico, il teatro, lo spettacolo, la cultura è sempre comunque uno strumento positivo, ma magari qualcuno può anche guardare a questo universo che forse non conosceva, quello del teatro e dello spettacolo, per appunto un reinserimento. Quindi buongiorno, buon anno, e se vuole appunto raccontarci, cercando di darci magari così una punta di ottimismo per questa situazione delle carceri, la vostra è una delle tante strade che si possono percorrere per cercare un reinserimento, per lavorare a un reinserimento. Sì, innanzitutto buongiorno e buon anno anche a voi. Sì, sicuramente il discorso intorno al teatro in carcere è estremamente complesso, come si può immaginare, nel senso che sono più di 30 anni che in Italia è attivo. E ricostruire una genealogia è abbastanza impossibile, però sappiamo che è un fenomeno che in Italia ad esempio ha avuto moltissima presa, sia perché da una parte le istituzioni, seppure inteso in senso singolo, nel senso che il discorso varia molto da carcere a carcere, a seconda delle possibilità del carcere stesso, a seconda delle direzioni e anche a seconda di chi va a fare l'intervento teatrale all'interno delle carceri, ovviamente l'esperienza cambia molto, no? Quindi le variabili sono veramente tante. Quello che abbiamo toccato con mano, che perlomeno sembra essere evidente, è che appunto c'è un miglioramento non solo di quella che è la vita diciamo quotidiana del detenuto, sulla quale, come ho appena ascoltato, ci sono anche delle opinioni che non tengono conto di quella che è la reale finalità costituzionale della pena, no? E, dall'altra parte anche una possibilità in più per il reinserimento. In che senso? Nel senso che in alcuni casi alcune delle prassi, diciamo, più definite, delle metodologie più strutturate, portano addirittura ad una professionalizzazione. Ecco, appunto, quello che magari appunto uno scopre di avere un talento teatrale e perché no, uscendo può. Quindi abbiamo ospite anche Luciana Delle Donne, che è amministratore legato e fondatrice di Made in Carcere. Un'altra possibilità è quella, naturalmente, molte carceri hanno dei laboratori interni, per esempio l'Avvenire parlava di questo, del laboratorio del carcere di Pozzuoli in provincia di Napoli, dove le detenute in particolare sono coinvolte in percorsi professionali, scolastici e appunto culturali. Come nasce quindi questa idea di Made in Carcere, che cos'è e quali sono gli obiettivi raggiunti finora e magari anche le difficoltà? Perché poi io, per esempio, che mi occupo di economia della moda e del design, so che ci sono tante aziende che magari vorrebbero anche usare meglio questi laboratori, però non è sempre semplicissimo stabilire un rapporto anche continuativo, che chi lavora sul mercato esterno ha bisogno, cioè delle garanzie comunque, per esempio, di una continuità di produzione, e quindi forse la scelta appunto di avere un proprio marchio Made in Carcere. Buongiorno intanto e buon anno. Buongiorno, buon anno a tutti. L'argomento è estremamente interessante, anche perché c'è da puntualizzare, da precisare su dei dati statistici che parlano proprio di una recidiva che viene abbattuta dell'80% se le persone che sono in carcere, in stato di detenzione, hanno un'esperienza di lavoro. Certo. Quindi già i dati, diciamo, portano ad essere comprensivi con questa fetta di mondo che spesso è totalmente abbandonata e trascurata. L'80% delle persone invece che non lavorano commettono nuovamente reato, quindi creano danni e sono un costo per la comunità. Un detenuto costa circa 60.000 euro l'anno, quindi questo significa che se noi abbattiamo la recidiva attraverso il lavoro, che è statisticamente provato, facciamo soltanto del bene a noi stessi. Il nostro è un lavoro vero, non abbiamo percorsi, i percorsi formativi ci sono, ma durano brevissimo, cioè durano massimo 3 mesi e poi vengono inserite le persone, proprio per garantire quella continuità che dicevi, legata alla necessità di produrre costantemente, perché altrimenti diventa poco affidabile il ruolo. Questo che poi guarda, è anche, per dare un elemento in più agli ascoltatori, è anche un po' il problema che si ha per chi decide, per esempio, di aiutare le comunità africane, soprattutto anche lì di donne, che poi c'è questa continuità, cioè un marchio occidentale deve, può essere, insomma, può sembrare cinico, però deve poter contare, appunto, una volta che ha promesso un prodotto, di poterlo sempre avere. Quindi per questo appunto ti facevo questa domanda. Certo, diciamo che il lavoro vero, quello che insegna alle persone un ruolo, il rispetto delle regole, una responsabilità, la sfida proprio del lavoro stesso, consente di trasformare le persone che hanno vissuto comunque in ambienti devastati solitamente, che hanno vissuto situazioni difficili, quindi sono luoghi che da luoghi di emarginazione, di degrado, continuano a vivere degrado ed emarginazione. Questo diciamo è una catena che noi cerchiamo di interrompere, proprio offrendo bellezza all'interno delle carceri, all'interno dei laboratori. Noi stiamo sviluppando dei laboratori con un concetto diverso, stiamo offrendo dei tappeti, dei divani dove, certo, dove svolgono lettura, dei mobili antichi, vivono come se stessero in una casa, perché non è la bruttezza o l'abbrutimento la pena migliore. La pena, certo, che stanno pagando, hanno commesso un reato, stanno pagando questo reato, ma devono ricostruire una vita che possa essere, certo, poi confrontabile in un mondo reale come il nostro. Certo, quindi noi abbattere, interrompere i circoli viziosi è un tema interessantissimo. Io davvero invito tutti gli ascoltatori a cercare sul web i progetti di teatro, i progetti di Made in Carcere, per capire appunto, come dicevi tu, che noi è spesso una questione di fortuna nascere o non nascere in situazioni che ti portano verso appunto la delinquenza. Grazie a entrambe, ancora buon anno, spero di poter tornare presto su questo tema, e agli ascoltatori do appuntamento verso le 13:30 per Effetto Mondo. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.